la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie per l'ascolto in diretto in podcast in questo 15 settembre, sono le 16:07 primi e 50 secondi circa. Di cosa parliamo oggi? Ci porremo la questione con degli ospiti, professori di diritto costituzionale, intorno all'eventuale sussistenza o meno di un problema che non è quello della legittimità della sentenza, ma della situazione che si crea per effetto della sentenza e della misura assunta dal Tribunale di Genova ieri nei confronti della Lega Nord, e cioè del sequestro di 48 milioni ai conti regionali del partito a titolo di risarcimento per rimborsi elettorali ingiustamente riscossi e usati impropriamente nove anni fa, dall'allora tesoriere della Lega Belsito, con condanne che ci sono state per Belsito, per l'allora leader della Lega Umberto Bossi e per suo figlio Renzo Bossi. Ora vi ricapitolerò la vicenda, vi chiedo subito, se volete intervenire iniziate a telefonare, prenotarvi 800 24 0024 per gli sms 349 238 6666 per dirci come la pensate. Pensate che questo intervento di sequestro dei conti di un partito che non ha precedenti, perché a Mani Pulite, nei tempi di Mani Pulite, cifre enormi, ma si parlava di tangenti, mentre qui si parla di utilizzo improprio dei contributi elettorali al partito, e quindi vedremo oggi come il Tribunale di Genova, rispondendo a Salvini, giustifica il suo blocco, che però è senza precedenti nella storia italiana, ed essendo senza precedenti e per di più avvenendo mentre si avvicina l'appuntamento elettorale, qualche problema lo può porre. Quindi interroghiamoci su questo. Voi diteci come la pensate, pensate che sia una misura impropria oppure no, e come va affrontata. Io vi riepilogo la vicenda prima di presentarvi gli ospiti. Il Tribunale di Genova ha condannato per truffa ai danni dello Stato Umberto Bossi, suo figlio Renzo Bossi e l'ex tesoriere del partito Belsito, più altri tre dipendenti del partito e due imprenditori coinvolti in questo scandalo che riguarda i rimborsi ricevuti dalla Lega Nord e utilizzati per spese personali dalla famiglia Bossi, e queste condanne sono avvenute nel luglio scorso. Sono condanne di primo grado. Umberto Bossi è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere, Belsito, l'ex tesoriere, a 2 anni e 6 mesi, Renzo Bossi a 1 anno e 6 mesi. Riccardo Bossi, il primogenito della famiglia, aveva già era stato condannato a 2 anni e mezzo nel marzo del 2016. Il Tribunale di Genova aveva anche indicato come misura quella della confisca di circa 48 milioni di euro al partito, perché a titolo di risarcimento per i rimborsi ingiustamente riscossi. I rimborsi ingiustamente riscossi ammontavano a 56 milioni di euro nel periodo tra il 2008 e il 2010. Questa vicenda, che ha sancito la fine politica di Bossi come segretario della Lega Nord e poi il cambio di leadership con Matteo Salvini, si passò, vi ricordate, per il movimento delle scope all'interno della Lega, energicamente invocate da Bobo Maroni, e poi si arrivò al cambio di leadership con Salvini. Ieri la reazione di Salvini è stata durissima, dice: questo è un tentativo per levarci di mezzo dalle prossime elezioni, e ha convocato per lunedì, oggi, un Consiglio federale straordinario della Lega e ha annunciato oggi un ricorso avverso il sequestro di questi 48 milioni dai conti delle leghe regionali. Vedremo adesso perché. firmato non solo da se stesso come leader della Lega, ma anche da migliaia di coloro che sono i donatori pubblici alla Lega, che dicono hanno dato i loro soldi, hanno contribuito ai loro soldi perché la Lega sia in grado di svolgere attività politica, e adesso quei soldi vengono sequestrati. E, a queste parole ha reagito il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi. Francesco Cozzi ha dichiarato testualmente, leggo: abbiamo il massimo rispetto per la Lega e per tutti i partiti, ma noi non abbiamo messo in atto nessun attentato alla Costituzione, anzi è stata intrapresa una azione a tutela del Parlamento, perché appunto i contributi sono elettorali e quindi formalmente sono le amministrazioni di Camera e Senato a darli alle forze politiche. E il procuratore di Genova, il procuratore capo Cozzi, ha continuato dicendo: Camera e Senato si sono costituiti parte civile nel processo per aver risarcito un danno derivante dalla erogazione di quei 56 milioni di contributi che non dovevano essere dati perché fondati su bilanci non corretti. Quindi, dice Cozzi, noi abbiamo chiesto e ottenuto questa misura, cioè il sequestro dei 48 milioni nei conti delle regionali, a tutela del Parlamento. Ecco, i processi che questo ufficio manda avanti, cioè la procura, dimostrano che non si guarda in faccia a nessuno e tantomeno a nessun colore politico. Adesso, quale può essere la questione che nasce? Vediamo, e quindi la domanda da fare ai nostri due ospiti. Ovviamente, almeno per quello che mi riguarda, ma sentiremo anche loro, nessuno dotato di buon senso può discutere la legittimità della richiesta da parte della procura e del riconoscimento da parte del tribunale di una misura di questo tipo a garanzia del Parlamento, visto che le condanne che erano state emesse sono relative proprio all'uso improprio di contributi elettorali. Ripeto, questa è la differenza rispetto alle condanne poi per tangenti. Ma la questione è questa, tra le altre: l'articolo 49 della Costituzione è molto preciso. L'articolo 49 della Costituzione dichiara e tutela una tra le libertà più preziose dei cittadini, cioè di noi tutti. Cioè, l'articolo 49 recita che i cittadini sono liberi di associarsi in partiti e che attraverso i partiti si esercita la libertà di concorrere con metodo democratico alla decisione della politica nazionale. Cioè il nostro è un sistema, come descritto nell'articolo 49, di democrazia rappresentativa. Quindi i partiti sono lo strumento di un diritto garantito ai cittadini per determinare la politica nazionale. E la politica nazionale si determina attraverso una occasione principe, la più importante di tutte, cioè le elezioni politiche. Domanda: se la sentenza e la misura di sequestro adottata dal Tribunale di Genova, oramai nell'imminenza dell'avvicinarsi di elezioni, feriscono, ledono la piena facoltà, stante quello che aveva in cassa oggi la Lega, di utilizzare al meglio quel che aveva in cassa oggi per partecipare al meglio alle prossime elezioni politiche, questa conseguenza è un problema rispetto al pieno diritto garantito non ai partiti ma ai cittadini all'articolo 49 della Costituzione, oppure no? Oppure bisogna leggere l'articolo 49 della Costituzione come mero diritto che comunque resta esercitabile dai cittadini di votarla anche se non avrà i soldi per fare la campagna elettorale, tanto le liste le presenteranno comunque? Oppure no, il problema non esiste per niente, il giudice penale è libero legittimamente di adottare questa misura cautelare che serve, ripeto, a garantire il diritto al risarcimento chiesto da Camera e Senato, e poi quello che avviene al partito che viene sanzionato, e beh, questo non può essere invocata come una circostanza esimente. Allora, a me personalmente, ho finito, tutta questa vicenda mi conferma l'idea che serve una legge di applicazione e di declinazione, per così dire, dell'articolo 49, quello che riguarda i partiti, come serve per i sindacati all'articolo 39. Servirebbe una bella legge che i partiti non hanno mai voluto, nella quale si sancisca, per esempio, formule e garanzie su come si esercita davvero quel metodo democratico che l'articolo 49 prescrive essere quello che i partiti devono adottare e offrire ai cittadini. E se pensate solo a quante controversie ci sono nel Movimento 5 Stelle, su gente buttata fuori, pensate alla vicenda in corso in Sicilia, per esempio, secondo me sarebbe il caso di una legge che disciplinasse innanzitutto queste garanzie sul metodo democratico e che poi prescrivesse gli obblighi, per esempio di trasparenza contabile, sia per la parte di conto economico che patrimoniale dei partiti, la pubblicità dei loro donatori, eccetera, eccetera. E magari anche qualche garanzia, per esempio anche la garanzia che in caso di escussioni a seguito di sentenze o di misure cautelari esse avvengano, perché è giusto che avvengano, ma in forme, per esempio graduate nel tempo, tali da non impedire il pieno e legittimo esercizio dei partiti, anzi no, il diritto pieno dei cittadini attraverso i partiti di poter concorrere alle elezioni, graduando nel tempo e così via. Tutte domande che, come vedete, non hanno a che vedere con il giudizio favorevole o contrario nel merito delle sentenze degli allora leader della Lega, dei suoi figli e dell'allora tesoriere, ma che hanno a che vedere con un problema generale, poiché è la prima volta che si crea una condizione di questo genere. Invito tutti voi a porsi il problema non di gioire se siete antileghisti, perché un domani potrebbe capitare al partito per cui ti fate o che votate, può capitare a chiunque. Bisogna porsi il problema generale per capire se serve una considerazione aggiuntiva da fare per uno strumento di legge, per un ricorso, per evitare che resti un altro problema aperto. Se ne sono aperti tanti negli anni di Mani Pulite. Io preferisco un paese maturo che si ponga il problema piuttosto che aspettare 20 anni e più, come abbiamo dovuto aspettare 20 anni e più l'autocoscienza di Di Pietro pochi giorni fa. Ecco, mi limito a dire questo. Gli ospiti, d'ora in poi non ho più niente da dire, ma parleranno loro. Abbiamo con noi il professor Giulio Neavigevone, che insegna diritto costituzionale alla Bicocca. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno. E il professor Tommaso Frosini, che insegna diritto pubblico comparato all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, grazie. Cominciamo con Vigevani, lei che ci dice? I problemi sono tanti che ho buttato lì, lo so, però intanto, secondo lei? Problemi tantissimi, complessi e non facili da riassumere, però due o tre idee mie, ovviamente personali. La prima, che mi sembra che l'articolo 49 c'entri relativamente poco, cioè, mi spiego, il nostro regime dei partiti, quello proprio tracciato all'articolo 49, in fondo non prevede delle immunità dei partiti, semmai secondo me dovrebbe prevedere l'opposto, cioè dovrebbe prevedere un controllo ancora più rigoroso sulle modalità attraverso le quali i partiti usano i soldi pubblici, ad esempio. Perché? Perché quando si parla di rispetto del metodo democratico, metodo democratico è anche questo, è anche la parità tra i partiti che esistono, la parità tra quelli che hanno usufruito del finanziamento pubblico e quelli che sono alla ribalta per la prima volta e quindi non hanno il finanziamento pubblico. Cioè una sorta di privilegio dei partiti con una regolazione diversa rispetto a quella degli altri soggetti, delle altre associazioni. Mi sembra che stoni, anzi, che vada nel senso opposto a quello che dovrebbero essere le regole dei partiti. E poi un ultimo aspetto: qui è vero che manca una legge sui partiti, che l'articolo 49 non impone ma in qualche modo auspica, però in questo caso c'è una legislazione che è appunto quella sul finanziamento dei partiti, che ha come presupposto quello che debba essere utilizzato per determinate finalità e non per altre. E allora in questo caso mi sembra che non vi è una violazione del diritto dei cittadini a partecipare alla vita pubblica, mi sembra che semmai sia quel partito, e se succede ad altri problemi degli altri, a porsi fuori attraverso una serie di azioni evidentemente che sembrano avere aspetti delittuosi dalla via democratica, dalla via della correttezza nella competizione elettorale. In questo senso io sono sempre preoccupato quando si vuole una disciplina diversa e speciale, anche perché poi proprio quelle discipline diverse e speciali spingono a quei populismi dell'antipolitica. Allora, regole chiare sono state violate e si applicano. Quindi lei dice, insomma, i partiti sono tenuti, semmai, e su questo la seguo, sono d'accordo, a un supplemento di trasparenza. Per questo io vorrei una legge che per esempio evitasse l'opacità che oggi resta sulle fondazioni politiche, che sono diventate il vero canale con cui si alimenta poi, si complementa e si alimenta in maniera non dichiarata la sostenibilità economica e finanziaria dei partiti. Però, per esempio, alcuni ascoltatori sollevano un problema. Uno degli argomenti usati da Salvini, che loro hanno sentito nei telegiornali, è stato, insomma, sono fatti riconducibili a un'altra gestione. A molti degli ascoltatori, più di uno a dire la verità, è venuto in mente, guarda, deve essere per quello che nella successiva evoluzione nel tempo di SPD, a un certo punto il tesoriere, lo conoscono in molti, Sposetti, ha segregato il patrimonio e l'ha portato fuori dai conti del partito, in maniera tale che a nessuno potesse venire in mente di rivalersi per obblighi inadempiuti dalle successive gestioni su quel patrimonio là. Dice, alcuni ascoltatori ci dicono, se questa sentenza quindi vale come è giusto che valga, alcuni dicono problematicamente altri dicono non lo so se non sia un problema, d'ora in poi a ogni cambio di segreteria tutti i partiti devono fare qualche cosa di analogo, perché altrimenti è come esporre la possibilità di fare al meglio politica a chi è venuto dopo e non c'entra niente alla possibilità di rivalersi per le colpe di chi c'era prima e non c'entra niente con chi oggi deve andare alle elezioni e verrà misurato sulle elezioni. È un argomento illogico secondo lei, professor Vigevani? No, non è illogico, però sul piano giuridico, in questo caso c'è una continuità del soggetto giuridico tra la Lega di Bossi e la Lega di Salvini, e quindi il giudice non può... Su questo infatti voglio spiegare a chi ci ascolta, i fermi sono stati fatti non ai conti nazionali ma a quelli regionali, perché la procura è convinta che in qualche misura allo scopo di scudare da possibili sconfitte in giudizio e azioni di rivalsa Salvini abbia distribuito le disponibilità economiche sui conti delle cosiddette leghe nazionali, e infatti è su quelle che è intervenuto il sequestro. Chiusa parentesi, ma era inerente a quello che stava dicendo, prosegue. Si è dato anche la zappa sui piedi dicendo in cassa non trovano neanche, non so, 49 euro, e quindi a quel punto la procura aveva il dovere d'ufficio di andare a bloccare i soldi, perché il debitore si era in qualche modo proclamato inadempiente, adesso detto banalmente. Però a parte questo, nel caso invece del passaggio al PD, lì c'era anche un'altra ragione, cioè che i DS volevano blindare i loro averi e non volevano darli al Partito Democratico, perché nasceva con l'ingresso della Margherita, gli ex democristiani. Sposetti, se li voleva tenere, se li voleva tenere lui i soldi, quindi è ben diverso. Lì c'era anche un interesse dei DS a non confondere i patrimoni. Semmai l'esempio potrebbe essere col caso Lusi, col caso dei soldi Margherita, sottratti alla Margherita. Però lì poi il tribunale dice che Lusi non ha utilizzato i soldi per un interesse legato al partito, e non c'era stato una violazione dei rendiconti come nel nostro caso, il rendiconto non certificato, ma Lusi era, detto banalmente, scappato lui con la cassa. Con i soldi, sì. Quindi è un po' diverso il caso, però quello mi sembra quello più simile. Però qui addirittura la Margherita ha avuto il diritto alla restituzione dei soldi giuridicamente, mentre la Lega in questo caso è l'opposto, cioè la Lega è il partito in qualche modo che ha violato la legge, mentre lì era il tesoriere che ha violato la legge contro il suo partito. Bene, allora lei ha dato un'opinione molto chiara. Iniziamo a sentire come la pensa il professor Frosini. Che dice lei? Allora, buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori, un saluto anche al collega Vigevani. a integrazione di quello che diceva Vigevani, io credo che l'approccio che lei ha dato al problema sia quello giusto, cioè una legge che disciplini un po' e regoli il funzionamento interno, da qui il problema di quel, diciamo, dispositivo dell'articolo 49 che dice con metodo democratico, che è sempre stato un po' la difficoltà interpretativa, cioè se il metodo democratico debba intendersi all'interno dell'organizzazione partitica o all'esterno. Comunque la legge, perché cioè, detta fuori dai denti, per la mia esperienza adesso va molto di moda parlare delle violazioni alla democrazia interna del suo Movimento 5 Stelle. Io ho fatto vita di partito, di dirigente di partito nella mia gioventù per molti anni, e nella mia esperienza tutti i partiti adottano criteri di stringentissimo autoritarismo dall'alto, quindi esatto. Mi scusi, ma la democrazia no, all'interno dei partiti io non l'ho mai vista in Italia. No, però. Ma infatti il motivo di una legge sarebbe quello di disciplinare la democrazia interna dei partiti, che non c'è mai stata. Ecco. Allora, da qui l'opportunità di fare una legge che addirittura risale agli anni 50, ricorderà il senatore Sturzo, fu il primo proponente di un disegno di legge di disciplina dei partiti, e a ogni legislatura si ripete il solito rito della presentazione, della discussione. Io stesso sono andato numerose volte in audizione sempre su questo tema della disciplina dei partiti, non si è mai fatto nulla. Perché? Perché naturalmente i partiti, come dire, non vogliono disciplinare se stessi, non vogliono autolimitare appunto questa loro capacità espansiva. Da ultimo, mi riferisco a questa legislatura, quando il problema si è posto e è stato discusso in Commissione Affari Costituzionali, la stessa 5 Stelle ha detto: ma noi non siamo un partito, noi siamo un movimento, perciò non riteniamo opportuno che si faccia una legge sui partiti, perché ci escluderebbe dal momento in cui noi non ci riconosciamo in quanto partiti. Detto questo, però, il problema con la vicenda oggi d'attualità che vede la Lega, io non vedo nessun collegamento con l'articolo 49 della Costituzione, non c'è nessuna, diciamo, limitazione del diritto dei cittadini a partecipare per il tramite dei partiti alla politica generale del paese. I cittadini lo potranno fare, lo fanno attraverso il voto, attraverso l'istituto della rappresentanza. Il fatto che un partito venga privato per motivi penali dovuti a un loro cattivo comportamento e gestione degli affari, diciamo, economici, non ha più una possibilità di impiegare denaro per, diciamo, organizzare la propria campagna elettorale, è un problema che non attiene all'articolo 49, è un problema che il partito potrà risolvere da sé, chiedendo ai propri iscritti, ai propri elettori, di dare dei contributi, oppure, anche qui torna il caso del Movimento 5 Stelle, che è stato un partito che si è creato sulla rete, senza nessun finanziamento. Ormai la campagna elettorale non si fa più col dispendio di soldi di un tempo, la si fa attraverso i social, attraverso internet. Beh, professor Frosini, abbiamo visto la campagna referendaria del PD, tra l'altro risoltasi male, ma non direi proprio che non si fa attraverso i soldi, si fa con un bel raccoltone di soldi, tra i pacchi di milioni, adesso non vorrei dire, quindi io penso solo a questo, mentre non ho difficoltà, vi abbiamo chiamato apposta per seguire il vostro ragionamento di accademici, di esperti della materia. Se mi metto nei panni di un elettore leghista, cosa che non sono, ma se mi metto nei loro panni e dico: se lì c'è scritto concorrere a determinare attraverso il partito che voto la politica nazionale, e quel partito non ha i soldi per fare la campagna elettorale per una sentenza penale collegata a una vicenda di 9 anni fa di un altro segretario politico contro il quale è stato eletto quello che io sostengo, a cui do il mio voto, beh, io lo concorrerò con molta minore energia, perché il mio partito sarà più debole e quindi io vengo penalizzato un po', che è la reazione di fondo che ci arriva qui da tutti gli elettori leghisti. Chiedo anche a voi che siete giuristi, questo fondamento è difficile levarglielo dalla testa. È apposta ho deciso di fare la trasmissione, perché se devono sapere che la base giuridica del ricorso, in cui molti sono confidenti, è una base giuridica un po' labile, beh, se ne devono fare una ragione, perché in quel caso, cari ascoltatori, dovete davvero dare una mano aggiuntiva e non sperare che arrivino i soldi da interventi giuridici. Adesso, visto che abbiamo chiarito che i nostri due ospiti, che sono di scuole diverse, culture diverse, ma insomma, dicono, beh, insomma, non ci pare che ci sia una grande base per un intervento, però dopo la borsa e un po' di pubblicità, sentiamo loro come ipotizzano che potrebbe andare un ricorso, cioè a cosa potrebbe fare appello e che cosa ne potrebbe derivare. Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta al tema sequestro conti la Lega. Qualche risposta al volo ad alcune delle tipologie dei vostri messaggi arrivati. Alcuni dicono trasmissione inutile, insomma cavoli loro. Non sono d'accordo, perché la prima volta nella storia della Repubblica c'è un sequestro dei conti a un partito, vale la pena interrogarsi. Questa è la mia modestissima opinione, non è che me ne voglio convincere, perché ripeto, credo che sia un problema di ordine generale, non è che riguarda solo i leghisti. Poi altri dicono, beh però Giannino, mica è vero che gli elettori leghisti adesso non sono quelli di prima, magari sono gli stessi, se lo meritano. Ecco, però ricordatevi che quando avvenne la consegna alla nuova leadership, nei sondaggi la Lega era scesa sotto il 2%, 1,8%. Adesso diciamo stiamo in una fascia tra 13% e 15%, quindi vuol dire che le politiche di merito di Salvini, che io non condivido nettamente, non condivido la scelta sull'euro, non condivido i toni con cui si parlano su molte cose da parte della Lega, detto questo, però hanno attirato molti consensi e quindi ci deve essere una parte preminente di elettorato che non ha a che vedere con la leadership precedente. Però detto questo, non è che ci mettiamo a distinguere se chi vota Lega la votava prima o la votava dopo, ci poniamo semplicemente il problema se, stante la novità e non contestando la legittimità della decisione assunta dal tribunale richiesta dalla procura, non ci sia un altro ordine di problemi. Ma a questo punto, il ricorso annunciato da Salvini, che tipo di ricorso può essere? Perché sono curioso di capirlo. Lei che dice, professor Vigevani? Allora, sono due piani diversi. Da una parte ci sarà la sentenza d'appello per Bossi, Belsito e compagni. Io spero che siano tutti assolti, anche se i reati erano gravi. Da garantista veramente spero che non vi sia una condanna. Anche un reato grave, la truffa ai danni dello Stato, un reato serio. Per quanto riguarda invece il ricorso contro il sequestro conservativo ordinato dal giudice. E qui non mi sembra però che vi siano, insomma, spazio per invocare, sì, appunto. Scusi, il ricorso politico può essere solo fatto in ordine a, se necessario, di fronte a un giudizio di primo grado, procedere al sequestro conservativo a tutela dei diritti del Parlamento. Non ha niente a che vedere il ricorso, non può avere niente a che vedere, o può avere a che vedere con la lesione delle prerogative alla forza politica rispetto all'elezione? Allora, nel ricorso, se io fossi l'avvocato, la butterei dentro, però con ben poche possibilità, secondo me, che sia accolto su quel profilo. Semmai, come Lega, proverei a dare al giudice delle garanzie patrimoniali, ad esempio, per garantire. Non escutetemi tutto subito. No, non escutetemi tutto subito. Io dico, io ho un palazzo, bene, mi metto un'ipoteca a favore, oppure mi metto su un conto 200.000 euro, 500.000 euro, sapete che quelli lì rimangono fermi fino alla sentenza di secondo grado, alla Cassazione, a quando sarà, e quindi lo Stato potrà rivalersi su quelli. Che allora dice? No, chiarissimo, ha dato una risposta. Che dice il professor Frozzini? Ma condivido, diciamo, questa opinione. Non credo che ci possano essere, diciamo, profili di lesione del diritto dei partiti di cui all'articolo 49 tali da essere impugnati di fronte a un giudice che semmai chiedere un pronunciamento di costituzionalità di quella norma che prevede il sequestro in capo ai partiti. Salvini proverà a difendersi di fronte al giudice opponendo le ragioni per le quali ritiene che sia ingiusto questo provvedimento. Ma ripeto, non considero che questa iniziativa giudiziaria vada a colpire, diciamo, il diritto dei cittadini. No, è stato chiarissimo su questo lei. Posso aggiungere una cosa? Certo. Cioè, l'idea poi che debbano essere i partiti a determinare, solo i partiti a determinare la politica nazionale del paese, si figuri, vorrei se che fosse un argomento, come dire, ormai superato. Si figuri se deve convincere me, però appunto, lo so benissimo. Quindi, come dire, smettiamola anche con questa concezione partitocratica in cui spetta ai partiti il primato della politica e della rappresentanza esclusiva per gli interessi del paese. Il paese può funzionare anche secondo criteri associativi che prescindono dai partiti politici, ecco. Non c'è dubbio. Allora iniziamo a sentire un po' delle vostre telefonate. Cominciamo con Ivano che ci chiama da Milano. Buon pomeriggio a tutti. Io ho sentito l'intervento del professore, il primo intervento, sì. E noto un paio di qualche incongruenza. La prima è, parlava di partiti nuovi con quelli vecchi. Allora io mi domando, i partiti invece che sono spariti e che continuano a prendere i soldi? Il Parlamento parla sempre della sua autonomia in tutte le questioni, tranne in questo caso in cui ricorre alla magistratura, quando poi avrebbe potuto bene utilizzare altre forme. Infine c'è l'aspetto che è una reintegrazione patrimoniale. Io come partito spendo dei soldi, faccio una campagna elettorale, a un certo punto mi vengono ridati questi soldi. Con questi soldi poi ne faccio quello che voglio. Non vedo perché entrano in questa cosa, anche perché, se non erro, i partiti non hanno l'obbligo di una presentazione di un bilancio con determinate forme, ma si limitano molto spesso ad autocertificare. Non mi sembra che ci siano degli obblighi particolari in questo caso. Perché questo è bene chiarirlo, perché mentre il resto sono sue opinioni, partiti vecchi, partiti nuovi, d'accordo. Questo ultimo punto è importante averlo chiaro, perché visto che c'è è per l'impropria rendicontazione che c'è la responsabilità del partito, chiediamo al professor Di Giovanni, in questo gli impegni secondo la legislazione attuale, gli obblighi di rendicontazione che in questo caso sono stati riscontrati non rispettati da parte del tesoriere della Lega e con responsabilità anche dell'allora leader della Lega, in cosa consistono? Sono sufficientemente prescrittivi questi obblighi di rendicontazione? C'è una certificazione terza indipendente oppure no, professor Vigevani? Non sono particolarmente prescrittivi, però la legge prevede che i rendiconti, nel momento in cui si certificano delle spese, queste spese devono corrispondere a quelle effettivamente attuate. Nel caso, io ovviamente non ho partecipato al processo, quindi ho una conoscenza un po' del relato, però in questo caso non sono stati certificati espressamente i soldi come sono stati usati. Non c'era poteva esserci al limite, probabilmente non sarebbe stato nemmeno sarebbe stato più difficile trovare illecito scrivendo certificazioni, soldi per laurea in Albania di eccetera eccetera. Invece in quel caso così non c'era scritto questo, c'era scritto altri utilizzo che in realtà non c'era. Per questo il reato è truffa. Il reato non è il reato di cattiva rendicontazione, il reato è truffa ai danni dello Stato. Questa è la differenza, proprio perché quei soldi che non sono soldi che entrano in tasca a un partito e il partito ci fa quello che vuole senza fare niente, ma sono soldi dei cittadini, che quindi i partiti devono utilizzare a determinati fini e con determinate modalità, non sono stati utilizzati a quei fini, non sono state rispettate quelle modalità. Per questo vi è il reato di truffa. Spero di essere stato chiaro. Chiarissima, certo, no, chiarissima risposta. Cioè che nessuno, per carità, a casa pensi che nella disponibilità di conti correnti di un partito il segretario dice al tesoriere: dammi soldi che io vado con un amante. Ecco, non si può fare per legge. Questo non so se è chiaro. E poi diventa doppio il problema se, naturalmente, dopo averlo fatto, viene non giustificato e certificato la spesa che è stata effettivamente svolta. Come ricorderete, le condanne avvengono per utilizzo di fondi a scopi privati da parte della famiglia Bossi. Abbiamo le informazioni sulle strade e poi torniamo. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta la versione di Oscar. Allora continuiamo in quest'ultima parte della trasmissione. Sentenza e decisione di sequestro, 48 milioni alla Lega. E sono con noi due professori di diritto costituzionale anche per dare una risposta alle vostre eventuali domande, dubbi, opinioni. Continuiamo con Graziano che ci chiama da Lecco. Graziano. Sì, buongiorno. Purtroppo ho saltato un pezzo di trasmissione, spero di non dire cose. la mia idea è, cioè, se i soldi nella disponibilità di questo partito non sono legittimi, non è che siccome c'è la campagna elettorale uno glieli lascia, perché non dovrebbe proprio averli, insomma. Ecco, solo quella lì l'osservazione, per cui l'articolo 49 non lo vedo quadrare. Esatto, adesso è un'osservazione sostanziale, c'è un'obbligazione e una tutela nei confronti del fatto che quella obbligazione alla restituzione venga, a titolo di risarcimento, venga appunto garantita. E quindi Graziano, lei dice, no, è la sentenza giusta e non c'è un problema di ordine generale sui diritti dei cittadini. Eugenio da Milano come la pensa invece? No, io chiedevo solo, siccome, buongiorno intanto a tutti. Sì. Io chiedevo, siccome è stato Bossi a fare quella confusione lì, o casino come si dice, perché non gli chiedono a lui in restituzione? Ecco, allora, il dubbio di Eugenio è, ma perché c'è una misura che tocca il partito e in questo caso la responsabilità non è individuale, è in capo alle persone? È un po' l'argomento che abbiamo sfiorato con il caso del tesoriere della Margherita. Che dice professor Frosini, come rispondiamo all'ascoltatore? Beh, sì, che non c'è una responsabilità soggettiva, i soldi sono andati al partito, non sono andati alla persona Umberto Bossi, poi lui ne ha disposto in maniera, diciamo, illecita, violando la legge e utilizzandoli per scopi privati. Ma i soldi erano del partito, quindi è il partito che risponde di quei soldi che ha ricevuto. Oggi Bossi, ieri Bossi, oggi Salvini. Voglio aggiungere, visto che lei citava il caso di Lusi, c'è anche il problema dei gruppi parlamentari, cioè il problema della gestione dei soldi da parte delle organizzazioni politiche passa anche attraverso l'utilizzo e lo spreco che viene fatto dai gruppi parlamentari. Ricordo soltanto un senatore, di cui non faccio il nome, che utilizzò i soldi dei gruppi parlamentari per farsi un'assicurazione sulla vita per sé e la sua famiglia. Cioè, qui è un problema molto più complesso, che non riguarda soltanto i partiti, che sono dei fantasmi giuridici. Sono i fantasmi giuridici, si intende che la loro è una natura di associazioni... no, perché va via, va via, va via, purtroppo il tono di voce non si riesce più a capire. Infatti la legge, secondo me, che servirebbe per i partiti dovrebbe intervenire anche su questo aspetto fantasmatico delle associazioni che sono particolari, che sono i partiti. Sentiamo ancora come la pensa Paolo da Milano. Sì, buonasera. Brevissimamente, concordando con lei sulla necessità di una legislazione che regoli la vita dei partiti, intanto per analogia ci potremmo regolare come con le aziende private, che per tutelarsi da eventuali azioni di rivalsa nei loro confronti, nel caso dei loro dipendenti, commettano dei reati nell'interesse dell'azienda, attuano dei regolamenti interni per poter dimostrare di aver cercato in ogni modo di adempiere alle leggi. Cioè lei sta parlando della legge 231. Esatto. Esatto. In questo caso la Lega non credo che possa dimostrare di aver messo in opera il massimo delle no, della ma buona attenzione, dirigenza. Questa osservazione di Paolo, cioè, cari professor Vigevani e Frosini, ma non è che nella legge per attuare l'articolo 49, disciplinare meglio i partiti, i loro obblighi e anche le loro prerogative e quelle di chi vi è iscritto. Non sarebbe il caso di introdurre anche un regime di rafforzamento della trasparenza, come quelle che invocava Vigevani all'inizio, analogo alla 231 che vale per le aziende? Che dice professor Vigevani? Sono d'accordo, ma dico di più, che forse i partiti già adesso potrebbero strutturarsi, come diceva bene l'ascoltatore, e darsi da soli un regime organizzativo, societario, diciamo tra virgolette, come associazione, che eviti che accadano ancora questi casi, perché dietro questi casi c'è anche un'assenza totale di un minimo di controllo da parte degli organi di controllo interni, eccetera, eccetera. Cioè il partito gestisce comunque un sacco di soldi e li gestisce come io gestisco i pochi euro che la mia famiglia ha, senza nessuna effettiva modalità seria di organizzazione. Ecco, forse qua gli altri partiti, dalla Lega alla Lega e tutti gli altri, dovrebbero prendere spunto da questa sentenza dicendosi, va bene, faremo la legge, questa legislatura non si fa, però iniziamo a darci un'organizzazione interna seria, e con un'organizzazione interna seria forse queste cose non accadrebbero più. Forse questa dovrebbe essere la risposta, più che invocare privilegi dicendo noi siamo diversi e quindi a noi i sequestri conservativi non vanno fatti. Allora, nel frattempo sulle agenzie c'è una nuova aggiunta di replica da parte del procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, e diciamo non le manda a dire, cioè non usa un linguaggio perifrastico, perché dice no, oggi veramente il tema per noi importante è che la Cassazione ha confermato l'impianto accusatorio della nostra inchiesta, delle nostre richieste sull''Ndrangheta, Ventimiglia e Bordighera, quelle sono le cose importanti, non abbiamo tempo da perdere sulle polemiche politiche. Quindi insomma, uno scocciatissimo procuratore dice a Salvini non ho tempo da perdere. Però professor Frosini, nella mia limitata esperienza, ma per quello che vale, non c'è, non l'abbiamo più richiamato, no, continuo con il professor Vigiovani. Nella mia limitata esperienza, professor Vigiovani, nei partiti vere certificazioni indipendenti dei bilanci mancano, perché i partiti sono totalmente autocratici, cioè nel senso che i leader esercitano il potere sul denaro in maniera assoluta. Questa è l'esperienza che ho avuto io, che riguardava i partiti della Prima Repubblica, tutti, ma riguardava anche il PC. Nel senso che, allora, può essere che la Seconda Repubblica le abbia fatte cambiare? Io non credo affatto, personalmente. Il problema è che questa legge non nasce esattamente per questa ragione qua, sostanzialmente, cioè a ogni evoluzione nel tempo del regime di sostegno pubblico, prima il finanziamento, poi i contributi elettorali, poi adesso il loro venir meno graduato nel tempo con la riforma approvata ai tempi di Enrico Letta, e a cui si è aggiunto questa nuova forma di opacità delle fondazioni, il segretario politico ogni referendum e ogni elezione decide lui insindacabilmente. Come fanno gli iscritti a contare qualcosa e a chiedere queste cose, secondo lei? Qual è la strada da battere? La strada da battere è anche, penso, la strada da battere ovviamente è la strada A, di una legislazione seria, e B, di una pressione dal basso, perché alcuni, almeno i partiti più organizzati, più seri, abbiano una struttura con una forma di controllo, di responsabilità dall'alto al basso, eccetera. Però ecco, se dobbiamo dare un merito a questo sequestro conservativo, io vorrei che i partiti dicessero: benissimo, per evitare di fare la stessa fine, ecco, diamocelo questo, ecco, diamocelo un'organizzazione, diamoci dei controlli, evitiamo che il leader abbia la cassa e quindi faccia quello che vuole, perché poi alla fine tutti siamo onestissimi, però la tentazione c'è. Ah, no, non c'è, allora, dubbio, non c'è dubbio. Allora, cari iscritti ai partiti, spetta a voi innanzitutto, perché è la tutela di un vostro primario diritto, più forte ancora di quello degli elettori. Questo mi convince molto da questo punto di vista. Poi naturalmente io non credo che avverrà. Comunque sarà sicuramente uno dei temi su cui Salvini adesso farà campagna. Questo scrivetevelo bene, e poi vedremo se sarà risolto addirittura in un vantaggio per la Lega, come pensano alcuni miei colleghi che si occupano di politica parlamentare, oppure no. A me interessa come espressione di un problema irrisolto, cioè quello di una disciplina dei partiti da paese avanzato, civile e trasparente. Per partiti e sindacati ancora non ci siamo, e quindi i problemi e le reazioni che avvengono proprio perché le nostre norme non sono, secondo me, adeguate. Grazie al professor Vigiano e al professor Frosini. Appuntamento domani dalle 10 alle 12, Conti della Belva, con me Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Non vi fate mancare un aperitivo più amaro che dolce prima del pranzo del sabato. A domani.